in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. E così siamo già, tra l'altro, all'ultima rassegna stampa di gennaio, perché sabato prossimo avremo già una nuova data, il primo di febbraio. Scusatemi, ma come forse avrete capito, sono un po' ossessionata dal passare del tempo, specie ora che ho compiuto 50 anni e sicuramente sono nella seconda metà della vita e il tempo sembra sfuggirmi. A proposito di tempo e di come si potrebbe usarlo, si potrebbe sempre usarlo nel modo migliore, vi segnalo, e parto come sempre da Vox Europe, un articolo che Vox Europe ha tradotto da Alternative Economique, il mensile francese che si occupa soprattutto di economia, ma nel senso di aspetti sociali, culturali, di sostenibilità dell'economia, del nostro modello economico, diciamo nostro nel senso occidentale, perché ha guardato a come si è evoluto nel tempo il fossato tra ricchi e poveri, a partire dagli anni 80 e in Europa. E così la domanda naturalmente da cui si partiva era: le disuguaglianze economiche sono in aumento nei paesi europei? E il risultato, abbastanza triste ma tutto sommato non sorprendente, è che i paesi come la Grecia e l'Italia, dove la crescita economica è comunque stata molto bassa o comunque più bassa di altri paesi negli ultimi anni, sono anche i paesi dove in questo momento le disuguaglianze sono più forti. In questi ultimi 10 anni, a proposito di tempo che passa, la situazione è comunque migliorata in Europa e in fondo, perché ci si dice sempre quando si parla di povertà, di persone che muoiono di fame ogni giorno, che comunque nel complesso la situazione nel mondo è migliore di tanti anni fa. È vero, però l'impegno dovrebbe essere, questo è un po' il senso dell'articolo, a continuare a migliorare e non a colmare questo fossato tra ricchi e poveri, mentre in Italia, che in Italia resta molto profondo. A proposito di Europa, vi segnalo un'intervista che Matteo Renzi ha dato alle Figaro. Ormai Matteo Renzi dà interviste, lo sapete, lo vedo anch'io quando mi capita di fare la rassegna stampa dei giornali italiani alla domenica o in altri giorni, dà molte interviste, adesso ha iniziato a darle anche con sempre maggior frequenza a giornali stranieri. Quindi alle Figaro dice: siamo un muro contro il populismo in Europa. Quando dice siamo, intende il suo partito Italia Viva. E alla domanda appunto se questo è era uno dei ruoli di Italia Viva, un muro al populismo, Matteo Renzi ha risposto: assolutamente, siamo solo al 5% nei sondaggi, ma il nostro obiettivo è diventare come En Marche, il partito del presidente francese Emmanuel Macron, che ha cominciato anch'esso, dice Renzi, con intenzioni di voto piuttosto basse, ma poi è aumentato. Vedremo. Poi Le Monde invece si è occupato dell'altro, del fatto politico di politica interna che è arrivato questa settimana dall'Italia, cioè le dimissioni del capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, e ha raccontato naturalmente anche quanto queste dimissioni siano vicine a 2 elezioni regionali che ha dovuto naturalmente spiegare nei dettagli ai suoi lettori, ai francesi, quelle in Emilia-Romagna e in Calabria, che sono molto importanti perché secondo la maggior parte degli osservatori avranno delle conseguenze anche sul governo centrale italiano. A proposito di 2020, che appunto stiamo già quasi per dire addio al primo mese del 2020, Herbert Diess, che è l'amministratore delegato di Volkswagen, il gruppo automobilistico tedesco, ha rilasciato un'intervista alla Frankfurter Allgemeine, il quotidiano di Francoforte, e l'ha fatto a Davos. E il senso di questa intervista è: il 2020 comunque sarà un anno positivo per il nostro gruppo, nonostante le difficoltà in cui versa, diciamo, il settore automobilistico nel suo complesso. Abbiamo guadagnato quote di mercato nel 2019, forse qualcosa continueremo a guadagnare nel 2020, che però sarà soprattutto l'anno in cui dobbiamo mettere a punto la svolta verso l'elettrico, le macchine elettriche. Volkswagen sta dedicando stabilimenti interi a questo nuovo tipo di veicoli. Abbiamo ricordato, forse abbiamo addirittura trasmesso a Effetto Mondo qualche mese fa un intervento della cancelliera cancelliera Angela Merkel, che era andata all'inaugurazione di uno di questi stabilimenti, e quindi dice guardiamo a questo settore e soprattutto prendiamo come esempio Tesla, perché Tesla è, dice, il modello di business dell'industria automobilistica che sta cambiando, e Tesla appunto è stata la prima azienda a capirlo. Questo per quanto riguarda la FATS. Poi molto interessante questa settimana da Financial Times un intervento scritto dal CEO di Google, che tra l'altro pochi giorni prima aveva superato, sapete, come capitalizzazione di borsa, cioè il valore delle azioni alla borsa di New York, il trilione di dollari, cioè 1.000 miliardi, e con questo ha raggiunto le uniche altre tre aziende che a New York hanno questo tipo di capitalizzazione, che sono Amazon, Microsoft e Apple, quindi in questo poker di aziende con questo tipo di valore di borsa. E forse anche forte di questa, e consapevole anche della posizione che Google occupa alla borsa americana, nell'economia americana, ma poi anche nelle vite di tutti noi, in questa lettera, che tra l'altro fa seguito poi ad alcuni interventi che l'amministratore di Google ha fatto a Bruxelles, dice sull'intelligenza artificiale, che naturalmente è potenzialmente uno strumento che potrebbe aiutare tantissimo lo sviluppo di tutti i settori industriali, però dovremmo trovare il modo, Stati Uniti, Unione Europea, Cina, Russia, tutti i paesi, di trovare delle regole e di trovare una consapevolezza che dobbiamo farle rispettare, perché la privacy è a rischio, perché l'intelligenza artificiale è un tipo di capacità dei computer che poi potrebbe essere difficile da controllare. È inutile citare, insomma, tutti gli esempi, e qui veniamo alla fantascienza e soprattutto ai libri di Isaac Asimov, che tra l'altro quest'anno avrebbe compiuto 100 anni. Insomma, la fantascienza ha immaginato degli scenari distopici in cui i computer, ai quali gli esseri umani avevano dato troppo potere, poi prendevano il sopravvento. Non che l'amministratore delegato di Google dica che lo scenario è questo, però appunto è interessante che dalle colonne di Financial Times dica: dobbiamo noi per primi di Google, ma soprattutto tutte le autorità di controllo e in generale la politica internazionale, dobbiamo prendere coscienza che servono appunto delle regole condivise. A proposito di tecnologia, sempre da Financial Times, questa volta lo trovate tradotto in italiano sul numero di Internazionale in edicola da ieri, questo interessante articolo che si intitola "Gli investitori sfidano la Silicon Valley". Qual è il tema? È quello che le grandi aziende tecnologiche statunitensi stanno subendo pressioni crescenti per occuparsi di più degli effetti delle loro attività sull'ambiente, sul lavoro e sui diritti umani. E ho visto anche che tra l'altro molti giornali francesi, perché naturalmente è una sorta di orgoglio nazionale, Christine Lagarde, ex numero uno del Fondo Monetario Internazionale e ora alla guida della BCE dopo la fine del mandato di Mario Draghi, hanno dato conto delle dichiarazioni che lei ha fatto a Davos, dicendo: guardate che l'impatto che qualsiasi tipo di azienda ha sull'ambiente deve essere una cosa di cui tutti si prendono coscienza. Dice: è molto difficile naturalmente per un'azienda quotata spiegare per esempio agli stakeholders che si investe in svolta ambientale, perché sono gli effetti di questi investimenti se ci saranno, e tutti speriamo che ci saranno, sono a lungo termine, ed è facile che qualcuno risponda: ma le previsioni sui cambiamenti climatici sono aleatorie. Però lei dice: è proprio questa la sfida delle aziende, cioè cambiare prospettiva, cambiare modo di spiegare agli stakeholders perché si fanno certi investimenti. E a proposito di questo, cioè dell'importanza della svolta verde, vi segnalo la copertina di Time di questa settimana, dove c'è un'illustrazione su sfondo bianco, è come una specie di uovo che si apre, e l'uovo che si schiude è il vecchio pianeta. Dentro c'è un pianeta che ha le stesse sembianze, però è chiaramente nuovo, e il titolo è Youthquake, è un gioco di parole perché earthquake significa, earth naturalmente significa terra, pianeta terra, ma earthquake è il terremoto, e quindi mettendoci invece davanti la parola gioventù, l'idea è appunto quella che i giovani possono davvero cambiare il mondo. Per giovani si intende anche molti di quelli che ancora non votano, quindi cambiano il mondo con il loro, con semplicemente manifestando il loro pensiero. Naturalmente ci riferiamo alla cosiddetta generazione Greta e a tutte le persone, tutti i ragazzi e ragazze che stanno vedendo in lei appunto una persona che dà voce alle preoccupazioni di abitanti di questo pianeta che ancora non hanno una voce, possiamo dire così, politica, cioè ancora non votano. Poi, così per chiudere anche su una nota invece più nostra, più italiana, vi segnalo dal Guardian, anche in questo caso trovate l'articolo tradotto su Internazionale, il numero in edicola da ieri, è un articolo dedicato a Fellini, un'altra persona che avrebbe compiuto 100 anni quest'anno. Il titolo è Fellini a Rimini ed è un viaggio per le vie della città romagnola dove si celebra il centenario della nascita del regista, autore di capolavori, scrive il Guardian, come I Vitelloni e La Dolce Vita. E con queste note, ricordando questo grandissimo regista, vi auguro ancora un buon sabato e vi do appuntamento naturalmente a sabato prossimo.